Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata un po' particolare del cacciatore di libri. Non parleremo di un solo libro, ma di tanti, di quelli che leggeremo nel 2011. Abbiamo sentito alcune case editrici per curiosare fra le novità che arriveranno in questo nuovo anno. Partiamo da Mondadori. Fra i nomi noti, nel 2011 ci sarà il ritorno di Zaffon, quello di L'ombra del vento per intenderci, e poi Patricia Cornwell e Sophie Kinsella. Ma quali saranno i nomi nuovi? Mondadori quest'anno propone due quasi esordienti, come ci racconta il responsabile della narrativa Antonio Franchini, quello che ha scoperto fra l'altro talenti come Paolo Giordano della Solitudine dei numeri primi. Sentiamo Franchini. Fabio Genovesi pubblica un romanzo intitolato Esche vive. Esche vive è un'allusione a uno dei due mondi che sono raccontati in questo romanzo. Uno è per l'appunto il mondo della pesca e un altro è il mondo del ciclismo, e in modo particolare il mondo del ciclismo dei ragazzi. Ed è la storia di un ragazzo il cui padre è un allenatore di ciclismo e sogna un futuro di grande ciclista anche per lui, solamente che questo giovane, per pescare di frodo con le bombe, si fa saltare in aria una mano e quindi non può più correre, non può più fare il ciclista. È un romanzo molto eccentrico, molto strano, molto commovente, molto nuovo. Il romanzo invece di Federica Manzon ha un titolo letterario alto, Di fama e di sventura si chiama questo romanzo, ed è una storia che comincia nella Trieste degli inizi del secolo e però racconta la storia di un uomo che arriva ai giorni nostri. Il cuore del romanzo è l'ascesa e la caduta di questo giovane uomo, che poi si confonderà con il disastro finanziario degli ultimi anni. I quasi esordienti di Mondadori sono dunque Fabio Genovesi con Esche vive e Federica Manzon con Di fama e di sventura. E veniamo a Rizzoli. L'anno scorso il grande successo dell'esordiente Silvia Avallone con Acciaio, e quest'anno quali sono gli esordienti su cui punteranno? Ce ne parla Michele Rossi, editor della Narrativa Italiana. Usciremo in gennaio con un romanzo di cui già si parla da tempo, di Barbara Di Gregorio, Le giostre sono per gli scemi. Già dal titolo Le giostre sono per gli scemi capiamo che non ha niente a che fare con nessun altro esordio in Italia in questo momento. Un libro, a mio avviso, straordinario, che davvero commuove, che sorprende. Dentro c'è una sorta di segreto che non posso svelare, ma non è il solito segreto che gli editori usano per vendere i libri. È davvero una sorpresa incredibile, il libro di una grande irregolare e di una grandissima scrittrice, questo per iniziare l'anno. Ma non è l'unico esordio, perché più avanti avremo un peso massimo. È un fisico, è un grandissimo studioso, Massimiliano Pieraccini, che ha scritto un thriller scientifico che è stato peraltro conteso tra tutti gli editori italiani all'estero, c'è stato veramente, sembrava di competere per John Grisham. Fra i nomi invece già noti, che cosa si prospetta con Rizzoli? Sicuramente si sono accorti i lettori che da più di un anno e mezzo Federico Moccia non è sugli scaffali delle librerie, perché era concentrato a scrivere questo romanzo. Un romanzo di grande transizione, un romanzo adulto, un Moccia che cambia completamente immagine, che cambia, come dire, rimane il Moccia amato dalle sue centinaia di migliaia di lettori, però fa un salto in avanti. Non ci sono più gli Steppe Babi o gli Alex e Nicky, ma ci sono due personaggi adulti che fanno delle cose che, come dire, i lettori di Moccia ricorderanno. Titolo del libro di Moccia che esce inizio anno, L'uomo che non voleva amare. Gli esordienti da tenere d'occhio, lo ricordiamo, Barbara Di Gregorio, Le giostre sono per gli scemi, e poi il thriller scientifico del fisico Massimiliano Pieraccini. Veniamo ora a Longanesi. La casa editrice punta su un crossover, cioè su un libro rivolto a tutte le generazioni, come spiega il vice direttore editoriale Giuseppe Strazzari. In questo campo abbiamo un libro per noi importantissimo, che si intitola L'Atlante di Smeraldo, e che è davvero, come dire, il crossover Longanesi. Il Longanesi ha nel proprio passato un grande successo, che si chiamava La storia infinita di Michael Ende, ed è la prima volta forse da allora che ci si presenta un libro con quelle caratteristiche proprio di salto generazionale, appunto di lettura che veramente può affascinare tutte le generazioni. Un'altra area su cui ci piacerà sfidarci, diciamo invitare il pubblico a seguirci, è invece, come dire, il thriller all'italiana. La Longanesi, diciamo, ha un precedente abbastanza recente e davvero ottimo, che è stato quello del Suggeritore di Donato Carrisi. Sarà la volta di un'autrice, sarà la volta, come dire, di un thriller che mescola un po' le carte con altri generi, che sono poi, come dire, un genere, come dire, più tecnico, come quello del medical thriller, quindi che prende un po' le mosse da CSI, diciamo, da quel mondo, come dire, del forensico, del medico, che molto appassiona, specialmente in ambito audiovisivo, e con una spruzzata anche però di situation comedy, un po' la Bridget Jones. Siamo incappati in questa autrice, Alessia Gazzola, un giovane medico legale, che per divertirsi, insomma, ha scritto questo libro che mescola veramente un po' i generi. Titoli longanesi da ricordare: L'Atlante di Smeraldo di John Stevens, sceneggiatore di serie TV che esordisce nella narrativa, che uscirà ad aprile, e il thriller all'italiana L'Allieva di Alessia Gazzola, esordiente, che vuole replicare il successo di Il Suggeritore di Donato Carrisi. Nel 2011 Adelphi pubblicherà il nuovo libro di Roberto Bolaño, Il Terzo Reich, ma pubblicherà anche quello che potrebbe rivelarsi un nuovo caso, Zia Maim, un romanzo già pubblicato qualche anno fa, ma di cui nessuno si era accorto. Adelphi lo ripubblica e scommette sul successo. È l'unico romanzo scritto da Austin Wright, ce ne parla l'editor Matteo Codignola. Si chiama Tony e Susan ed è un libro sui libri, su un narrare in quanto tale. È la storia di una signora che è stata lasciata da un uomo anni prima, il quale uomo voleva disperatamente fare da scrittore, e questa signora riceve un giorno un pacco che contiene un manoscritto, ed è del suo ex marito, che le scrive: il libro finalmente l'ho scritto, vuoi che lo leggessi? E con grande sorpresa della donna, il libro è uno spaventoso romanzo nero di terribile violenza e tensione, e che lei legge precipitando poco a poco in uno stato d'animo, e entrando e uscendo dalla lettura racconta cosa lei vede in questo libro, come lei ci sta entrando, come ne è catturata, come ne è respinta, eccetera, eccetera. Quindi è un romanzo che ha dentro uno straordinario romanzo e intorno una straordinaria riflessione su che cosa significa raccontare, cosa significa ascoltare le storie, dirle, leggere, eccetera, eccetera. Il titolo Adelphi è Tony e Susan di Austin Wright. Infine Feltrinelli, qual è il nome dell'esordiente da tenere d'occhio? Ce lo dice il direttore editoriale Gianluca Foglia. Il nome da tenere d'occhio è quello di Alessandro Mari. Un esordio importante perché si tratta di un libro di 700 pagine, di una grande storia corale che è ambientata nell'Italia dell'Ottocento. È un esordio sorprendente perché ha l'ambizione di fare un grande romanzo storico, un libro voluminoso, eccetera, corrisponde un talento di scrittura, una solidità narrativa, una fantasia e una generosità che a nostro avviso raramente si trova, si riscontra nelle opere prime. Fra i nomi invece già noti, che cosa proporrà Feltrinelli nel 2011? Abbiamo due ritorni italiani importanti di nostri autori consolidati, uno è quello di Eri De Luca, uno degli autori più amati del nostro catalogo, più amati dal pubblico, che torna con un piccolo libro che si intitola Edisse e che è il racconto alla maniera di De Luca di Mosè che va in vetta al monte a ricevere i 10 comandamenti da Dio. Un altro ritorno importante è quello di Stefano Benni, libro che si intitola Le Beatrici, 2016 ed è una raccolta di 6 monologhi femminili che raccontano da varie visuali, da varie prospettive anche di generazione, di età, l'universo femminile con l'occhio divertito, divertente di Stefano Benni. L'esordiente Feltrinelli è dunque Alessandro Mari con Troppa umana speranza. Fra i big, il ritorno di Henry De Luca e Stefano Benni. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.